Nel frattempo, due clienti molto eleganti, in abito da sera e cravatta bianca sotto il soprabito, due russi, a giudicare dal loro lievissimo accento, indugiavano sulla porta, incerti se entrare o no. Era visibilmente la prima volta che venivano lì. Qualcuno doveva aver fornito loro l'indirizzo e sembravano combattuti fra il desiderio, la tentazione e una gran fifa. Uno dei due, un bel giovane, ripeteva ogni due minuti all'altro con un sorriso per metà interrogativo, per metà destinato a persuadere: «Ma che diamine? In fin dei conti me ne infischio». Ma sebbene con ciò volesse dire che in fin dei conti si infischiava delle conseguenze, è probabile che non se ne infischiasse poi tanto, visto che quella frase non era affatto seguita dal movimento d'entrare, ma da un nuovo sguardo verso l'altro, seguito dallo stesso sorriso e da un nuovo «in fin dei conti me ne infischio». Era quell'in fin dei conti me ne infischio un esemplare fra mille dello straordinario linguaggio, così diverso da quello che parliamo abitualmente, in cui l'emozione fa deviare ciò che volevamo dire e fa sbocciare al suo posto una frase affatto differente, emersa da un lago ignoto in cui vivono le espressioni che non hanno rapporto col pensiero e perciò stesso lo rivelano. Ricordo che Albertine, una volta che Françoise stava entrando senza che l'avessimo sentita, mentre la mia amica se ne stava tutta nuda contro di me, per avvertirmi aveva detto suo malgrado: «Guarda, ecco la bella Françoise!» Françoise, che non ci vedeva più tanto bene e stava solo attraversando la stanza a una certa distanza da noi, probabilmente non si sarebbe accorta di niente. Ma quelle parole così anormali, la bella Françoise, che Albertine non aveva mai pronunciate in vita sua, denunciarono da sé la propria origine. Le sentì dettate a caso dall'emozione. Non ebbe bisogno di guardare per capire tutto e se ne andò mormorando nel suo dialetto la parola puttana. Un'altra volta, molto tempo dopo, quando Bloch, diventato padre di famiglia, diede in sposa una delle sue figlie a un cattolico, una persona poco educata, disse alla ragazza che gli sembrava d'aver sentito dire che era figlia d'un ebreo e le chiese come si chiamasse. Lei, che era stata Mademoiselle Bloch sin dalla nascita, rispose pronunciando Bloch alla tedesca, come se la CH non fosse stata una C o una K, ma la CH tedesca, come avrebbe fatto il duca di Guermont. Per tornare alla scena dell'albergo, in cui i due russi si erano decisi a penetrare, in fin dei conti me ne infischio, il principale non era ancora tornato quando Jupien venne a lagnarsi che si parlava troppo forte e che i vicini si sarebbero lagnati, ma si fermò stupefatto alla mia vista. «Andate tutti sul pianerottolo». Stavano già alzandosi tutti quando gli dissi: «Sarebbe più semplice che i ragazzi rimanessero qui e uscissi io un momento con voi». Mi seguì molto agitato. Gli spiegai come mai ero lì. Si sentivano dei clienti chiedere al principale se non poteva presentarli a un lacchè, a un chierichetto, a un autista negro. Erano interessati a tutte le professioni, quei vecchi pazzi, nell'esercito a tutte le armi e agli alleati di tutte le nazioni. Alcuni volevano soprattutto dei canadesi, subendo forse senza rendersene conto il fascino d'un accento così lieve che non si capisce se sia quello della vecchia Francia o dell'Inghilterra. Molto richiesti per via del gonnellino e perché certe fantasticherie lacustri s'associano spesso a desideri del genere, erano gli scozzesi. E poiché ogni follia assume tratti particolari, se non s'aggrava addirittura a causa delle circostanze, un vecchio di cui probabilmente nessuna curiosità era rimasta inappagata domandava con insistenza se non avrebbero potuto fargli conoscere un mutilato. Sulla scala risuonarono lenti dei passi. Con un'indiscrezione che faceva parte della sua natura, Jupien non poté trattenersi dal dirmi che chi stava scendendo era il barone, Bisognava assolutamente che non mi vedesse, ma se io avessi voluto entrare nella camera attigua al vestibolo dove stavano i ragazzi, lui avrebbe aperto il vasistas, trucco che aveva inventato perché il signor di Charlus potesse vedere e sentire senza essere visto, e che, mi spiegò, avrebbe volto a mio vantaggio contro il barone. Soltanto non vi muovete, e dopo avermi spinto nel buio, mi lasciò. Non aveva del resto altre camere da darmi. Il suo albergo, nonostante la guerra, era al completo. Quella che avevo appena lasciata era stata presa dal visconte di Courvoisier, che, avendo potuto lasciare per 2 giorni la Croce Rossa di X, era venuto a rilassarsi brevemente a Parigi, prima di raggiungere al castello di Courvoisier la viscontessa, alla quale avrebbe detto di aver perso il treno giusto. Non sospettava certo che il signor di Charlus fosse a pochi metri da lui, né più di lui lo sospettava il barone, non avendo mai incontrato il cugino da Jupien, il quale ignorava la personalità, dissimulata con ogni cura, del visconte. Il signor di Charlus in effetti fece ben presto il suo ingresso, camminando con qualche difficoltà a causa delle ferite cui doveva peraltro essere abituato. Sebbene il piacere fosse finito e non venisse lì che per dare a Maurice il denaro che gli doveva, il barone volgeva in cerchio su quell'accolta di giovani uno sguardo tenero e curioso e pregustava certo il piacere di scambiare con ciascuno di loro un saluto affatto platonico ma amorosamente prolungato. Notai nuovamente in lui, in tutta la briosa frivolezza di cui diede prova davanti a quell'arem che sembrava quasi intimidirlo, le mosse del busto e della testa, l'ingentilirsi dello sguardo che m'avevano colpito la sera del suo debutto alla Raspellière, grazie ereditate da qualche nonna da me non conosciuta e che sul suo volto erano dissimulate nella vita d'ogni giorno da espressioni più virili ma in certe circostanze, quando voleva piacere a un ambiente inferiore, venivano inalberate nel più civettuolo dei modi dal desiderio di mostrarsi grand'ama. Jupien li aveva raccomandati alla benevolenza del barone giurandogli che erano tutti dei pappa di Belleville e che avrebbero venduto la propria sorella per un Luigi. Jupien, del resto, diceva il vero e mentiva nello stesso tempo. Migliore, più sensibile di quanto lui dicesse al barone, questa gente non apparteneva a una razza selvaggia. Chi li credeva tali si rivolgeva loro, tuttavia, con la più totale buona fede, come se altrettanta ne avessero avuta quei terribili. Un sadico ha un bel credere d'essere con un assassino. La sua anima pura, di lui sadico, non è mutata per questo. Ed egli rimane stupefatto davanti alla menzogna di costoro che non sono affatto assassini ma desiderano guadagnare facilmente un testone e le cui madri e sorelle risuscitano e rimuoiono a mano che essi si contraddicono conversando con il cliente al quale cercano di piacere. Nella sua ingenuità, nella sua arbitraria concezione del gigolò, il cliente rimane attonito perché se lo mandano in estasi i numerosi assassini di cui lo crede colpevole, lo sgomentano la contraddizione e la menzogna che sorprende nelle sue parole. Sembrava che tutti conoscessero il signor di Charlus, e lui si fermava lungamente con ciascuno, parlandogli in quello che credeva il loro linguaggio, per una pretenziosa affettazione di colore locale, ma anche per il piacere sadico di mescolarsi a una vita abietta. «Vergognati! Ti ho visto davanti all'Olimpia con 2 tardone. È per la grana, ci scommetto. E così mi tradisci, eh?» Fortunatamente per lui, quello a cui questa frase era rivolta non fece in tempo a dichiarare che non avrebbe mai accettato grana da una donna, cosa che avrebbe diminuito l'eccitazione del signor di Charlus, e limitò la sua protesta all'ultima parte della frase replicando «Oh no, che non vi tradisco!». Il signor di Charlus provò un vivo piacere a queste parole e poiché il genere di intelligenza che gli era naturalmente proprio rispuntava suo malgrado da sotto quello che affettava, si volse verso Jupien. «È carino da parte sua, e come lo dice bene, Sembra quasi che sia vero. In fondo, che importanza ha che sia o non sia vero, dal momento che riesce a farmelo credere? E che splendidi occhi. Vieni, ragazzo mio, ti darò due bei bacioni per il tuo disturbo. Penserai a me quando sarai in trincea. Ce la farai a sopportarla, quella vitaccia? Madonna, ci sono certi giorni quando le granate ti fanno la barba. E il giovanotto si mise a imitare il rumore delle granate, degli aerei, eccetera. Ma bisogna pur fare come gli altri, e potete essere sicuro al 100% che s'andrà fino in fondo, fino in fondo. Si sapesse almeno quale fondo, disse malinconicamente il barone, che era pessimista. Non avete visto cosa ha detto Sara Bernard sul giornale? La Francia andrà fino in fondo. I francesi piuttosto si faranno ammazzare sino all'ultimo uomo. Non ho il minimo dubbio che i francesi si facciano ammazzare da valorosi sino all'ultimo uomo, disse il signor di Charlieu, come se fosse la cosa più semplice del mondo, e sebbene personalmente non avesse intenzione di fare alcunché, ma voleva correggere così l'impressione di pacifismo che dava ogni volta che si lasciava andare. Non ho dubbi, ma mi chiedo fino a che punto la signora Sara Bernard sia qualificata a parlare in nome della Francia. Ma mi sembra di non conoscere quell'incantevole, quel delizioso giovanotto, aggiunse, notandone un altro che non riconosceva o che, forse, non aveva mai visto. Lo salutò come avrebbe salutato un principe a Versailles, e per approfittare dell'occasione e prendersi gratis un supplemento di piacere, così come io, quando ero piccolo e mia madre aveva fatto qualche ordinazione da Boissier o da Gouache, prendevo dalle mani d'una commessa un confetto estratto da uno dei vasi di vetro fra cui le signore del banco troneggiavano, afferrando la mano dell'affascinante giovane, stringendogliela lungamente alla prussiana e fissandolo negli occhi con un sorriso per il tempo interminabile necessario una volta ai fotografi quando la luce era cattiva. «Sono felice, signore, sono estasiato di fare la vostra conoscenza». «Ha dei bei capelli», aggiunse rivolgendosi a Jupien. Si avvicinò poi a Maurice per consegnargli i suoi 50 franchi, ma non senza, prima, averlo preso per la vita. «Non mi avevi mai detto che hai sistemato una portinaia di Belleville?» E il signor di Charlieu rantolava d'estasi, avvicinando il viso a quello di Maurice. «Oh, signor barone», disse il gigolo che nessuno aveva pensato ad avvertire, «come potete credere una cosa del genere?» Sia che il fatto in realtà fosse falso, sia che il suo autore lo trovasse, ancorché vero, abominevole e tale che convenisse negarlo. «Io mettere le mani su un mio simile? Su un crocco, sì, perché la guerra è la guerra, ma una donna è una donna vecchia, per giunta». Questa virtuosa dichiarazione di principi fece l'effetto d'una doccia fredda sul barone, che s'allontanò bruscamente da Maurice consegnandogli tuttavia il denaro, ma con l'aria indispettita di chi, essendo stato imbrogliato, non vuol fare storie e paga, ma non è contento. La cattiva impressione fu d'altronde acuita nel barone dalle parole con cui il beneficiario lo ringraziò. «Li manderò ai miei vecchi, ma ne tengo un po' anche per mio fratello che è al fronte». Il disappunto del signor di Charlieu per questi sentimenti edificanti fu quasi pari al fastidio provocatogli dalla loro espressione d'un contadinesco alquanto convenzionale. Jupien qualche volta li avvertiva che dovevano essere più perversi. Uno, allora, con il tono di chi confessa qualcosa di satanico, azzardava: «Sapete, barone, da ragazzo, voi non ci crederete, guardavo dal buco della serratura i miei genitori che si baciavano. Vizioso, no? Penserete che è una balla, lo so, ma vi giuro che è proprio come dico». E il signor di Charlieu era al tempo stesso disperato ed esasperato da quello sforzo artificioso verso la perversità che riusciva solo a rivelare una grande stupidità è una grande innocenza. E nemmeno il ladro, l'assassino più risoluti l'avrebbero soddisfatto, giacché tacciono il loro delitto. E c'è d'altronde nel sadico, per buono che egli sia, anzi tanto più quanto più lo è, una sete di male che i malvagi, che agiscono per altri scopi, non possono soddisfare. Il giovanotto, rendendosi conto troppo tardi del suo errore, ebbe un bel dirgli che detestava gli sbirri e spingere l'audacia sino a dire al barone: «Mollami un gancio, dammi un appuntamento». L'incanto era svanito. Si sentiva il trucco, come nei libri degli scrittori che si sforzano di usare l'argot. Invano il giovanotto elencò particolareggiatamente tutte le sozzerie che faceva con sua moglie. Il signor di Charlus fu colpito solo da come esse si riducessero a poca cosa. Del resto, non era solo per insincerità. Niente è più limitato del piacere e del vizio. Si può davvero, in questo senso, cambiando il senso dell'espressione, dire che non si esce dal solito circolo vizioso.